Buon pomeriggio a tutte e a tutti, la vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria questa è Attica Blues. Oggi dedicheremo la seconda puntata a Sly and Robbie, ma questa volta al di fuori delle loro normali attività nella reggae music, e come avevamo già detto dedicheremo altre puntate alle fondamenta del reggae, alle varie coppie di basso e batteria. E di materiale in realtà ne abbiamo veramente tanto, e infatti pare che questa portentosa sezione ritmica abbia suonato su più di 200.000 tracce, non contando remix e dub version. E allora, Sly Dunbar, classe 1952, Robbie Shakespeare, classe 1953, entrambi nati a Kingston, furono riuniti per la prima volta dal produttore giamaicano Jojo O'Kim per l'album di Jimmy Cliff, Follow My Mind. E poi, nello stesso anno, furono chiamati anche da Serge Gainsbourg. E infatti il cantante francese ha realizzato proprio un album nel Dynamic Sound Studio di Kingston, Jamaica, nel 1976. E per la realizzazione di questo album Serge Gainsbourg si è affidato a Sly and Robbie, basso e batteria, ma anche a Sickly Thompson e un trio vocale d'eccezione, ossia quello che accompagnava Bob Marley, ossia le I-Trees, formata da Rita Marley, Marcia Griffith e Judy Movan. E allora noi da quest'album Aux Armes etc. ci ascoltiamo Vieille Canaille. Portant la vaisselle, dessus du lit en dentelle, argenterie et un rideau vieux chameau. J'ai sorti mon fusil et canaille. J'ai sorti mon fusil, vieille canaille. Quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup. Et je t'aurai vite refroidi, vieux bandit. On te mettra dans une tombe, vieille canaille. Et moi, j'irai faire la bombe, vieille canaille. La plus belle cuite de ma vie sera pour tes funérailles, vieille canaille. Brano di Serge Gainsbourg che riprende quella You Rascal You, la canzone americana scritta nel 1929 da Sam Third. E allora un brano famosissimo ripreso anche da Louis Armstrong, Cab Calloway e ancora in tempi più recenti da Sly and Robbie in compagnia di Horace Sandy. E allora rimaniamo ancora in ambito Serge Gainsbourg per il rifacimento di un suo pezzo per l'album Laura Rassaquer del 2003 a firma di Marianne Faithfull. Eh sì, Marianne Faithfull, cantante, attrice, insomma artista a 360 gradi, musa ispiratrice degli Stone nel periodo d'oro e per un periodo compagna anche dello stesso Mick Jagger. Qui quella che ci ascoltiamo è la sua versione di Lola R. Forever. How do you dare talk of love if you've never known Lola Rastaquer? She thought she was a he thought he was a she, but neither of them knew really. A shabby cat house, the happy few. Stripper on a string, foot in the queue. You had to mix wages for the ultimate view. Deep in the sea, and when all's been done and nothing's been said, you leave the joint and roll to sleep. You run your fingers through her hair, between you and me. Her lips don't give a damn. She'll go down on you, still breathing air. The sun start to rise, so do you, if you can. Yeah. Vi abbiamo già parlato della collaborazione tra Sly e Robbie e Manu Dibango proprio nell'altra puntata dedicata a Sly e Robbie, in quanto era da poco morto il grande Manu. Ma qua ci ascoltiamo un altro brano. Sì, Manu Dibango scomparso il 24 marzo a Parigi all'età di 86 anni. E allora il grande sassofonista camerunense ha registrato alcuni brani nel 1978 e 1979, e brani poi raccolti nell'album Shock and Soul con Sly and Robbie a basso e batteria, ma anche con Randy Brecker alla tromba e Michael Brecker al sassofono. E allora noi ci ascoltiamo Night Jet. Sud, sud, pele, pemba. Nongo pemba, sud, sud, nongo pemba. Mawano Onyolana Wape waplana Diope enongewa Diope ebambewa Na wape walejene mwaye Thank you. Papa la Saoul. Papa la flabe home longi. So. Bana motanga ndi wa sadi lambo. Lambo benondolo. Wanga wa samolunge longole sinaba. Ponda yo apuma kusamo. Ponda yo pe. Ponda esi ben ponda nyana yende ponda. Mwande ba bele nona na. Mbana mwande ba bele nona ha na. Nyadwa wana selele. Na selele. Eh. Bele pemba na Nana le kere ndola me so Ala nembana. Per quanto questa puntata è dedicata alle collaborazioni di Sly e Robbie al di fuori della reggae music, comunque lo stampo fondamentale di questo bassista e di questo batterista rimane ed ha influenzato anche numerosi gruppi portandoli a fare delle cover reggae, come nello specifico i prossimi due brani che ci ascolteremo, che saranno Night Nurse e Many Rivers to Cross. Night Nurse ce l'ascolteremo nella versione di Mick Hucknall e dei suoi Simply Red, contenuta nell'album Blue, e sempre nel 1998 sarà contenuta nell'album di Sly e Robbie and Friends, un brano scritto da Gregory Isaac che anche ha accresciuto la sua popolarità al di fuori della Giamaica e del reggae. E allora, Simply Red, Night Nurse. Try your best just to make it quick. Woman, tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Mickey. Night nurse, only you alone can quench this here thirst. My night nurse, oh God, oh the pain is getting worse. From my nurse around the clock. Cause there's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Come annunciato, adesso ci ascoltiamo un altro classicone del reggae, un pezzo originario di Jimmy Cliff, un pezzo tra l'altro che in questa cover di Joe Cocker è uscito per l'Island, in quanto ci fu un accordo di edizioni tra la Taxi Gang e l'Island Record di Chris Blackwell. Un brano raccolto nell'album Sheffield Steel del 1982 a firma di Joe Cocker. E qui accanto a Sly e Robbie ci sono anche le percussioni di Sticky Thompson. E allora, Many Rivers to Cross, Joe Cocker. Many rivers to cross, but I can't seem to find my way. Wandering, I'm lost as I travel along the white cliffs of Dover. Many rivers to cross, and it's only my will that. I've been ripped, washed up for years, and I merely survived because of my pride. And that's loneliness won't leave me alone. It's such a drag to be on your own. She wouldn't see why. Guess I'll just break right down and cry. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time. There've been times I found myself thinking on yet some terrible crime. Sure, that's loneliness won't leave me alone. Yes, such a drag to be on your own. My God left me, but she wouldn't see why. Guess I'll break right down and cry. Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Wandering, I'm lost as I travel along white cliffs of Dover. Many rivers to cross, and it's only my will that keeps me alive. I've been ripped, washed up in years. E negli anni 80 Sly e Robbie sono già famosissimi e chiamati dalle star di tutto il mondo. Nel 1985 li chiamerà Bob Dylan per l'album Empire Burlesque e nello stesso anno anche De Gregori per il suo Scacchi e Tarocchi. E allora noi ci ascoltiamo Sly e Robbie proprio in un pezzo di Bob Dylan accompagnato anche da Mark Knopfler alla chitarra, Mick Taylor all'altra chitarra, Alan Clark alle tastiere e appunto Robbie Shakespeare al basso e Sly Dunbar alla batteria. E quella che ci ascoltiamo è Don't Fall Apart on Me Tonight, Bob Dylan. all you need, girl. Just a minute before you touch the door. What is it you're trying to achieve, girl? Maybe we can just talk about it some more. In all the streets I filled with vipers, the lost story of hope. You know it's not even safe no more in the palace of the foe. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you, yeah. Come over here, come over there, girl. Sit down here, you can have my chair. I can't see us going anywhere, girl. The only place open is 1,000 miles away, and I'm not gonna take you there. I wish I'd have been a doctor. Maybe I'd have saved some lives that have been lost. Maybe I'd have done some good in the world. Burning every bridge I crossed. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Yeah, you. I need you. I ain't too good at conversation, girl. So you might not know exactly how I feel. But if I could, I'd bring you to the mountaintop, girl. And build you a house out of stainless steel. But it's like I'm stuck inside a painting that's hanging in the Louvre. My throat starts to tickle and my nose itches. But I know that I can't move. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday is gone, but the past lives on. Tomorrow's just one step beyond. And I need you. Oh yeah, I need you. These people that are walking towards you, you know them or whatever you fight. With a humorless smile so easy to see through, can they tell you what's wrong from what's right? Or do you remember Napoleon's speech where your blue jacket piece man? You were so fine, Clark Gable would have fell at your feet and laid his life on the line. Let's try to get beneath the surface waves, girl. No more booby traps and bombs. No more decadence and charm. No more affection that's misplaced, girl. No more mud cake creatures lying in your arms. What about that millionaire with the drumsticks in his pants? He looked so baffled and so bewildered when he played and we didn't dance. Don't fall apart on me tonight. I just don't think that I could handle it. Don't fall apart on me tonight. Yesterday is just a memory. Tomorrow's never what it's supposed to be. And I need you. Yeah, you, I need you. I varie star che hanno chiamato Sly e Robbie come sezione ritmica per le loro registrazioni, compare anche Eric Clapton, che li ha chiamati per una traccia speciale, I Shot the Sheriff di Bob Marley, che noi ci ascolteremo live, in quanto molto spesso Eric Clapton la performa nei suoi live. Rimaniamo in Inghilterra, dove incontriamo un'altra cantautrice britannica, quella Joan Arma Trading, che si è spostata dal folk pop degli anni 70 al rock e new wave degli anni 80. Ed è proprio di questo periodo del 1981 che Johann Arma Trading sceglie come sezione ritmica Sly e Robbie per il suo album Walk Under Ladders. E noi ci ascoltiamo I Can't Lie to Myself. Arriviamo a un'altra collaborazione importante, il 1999, quando Elton John insieme a Tim Rice fa un album di nome Aida con tutta quanta una serie di ospiti, e nella traccia di apertura ci sono sia Sly & Robbie che Sting. La tune si chiama Another Pyramid. Is not really in the pink. Hopes could not be minuscule that you'll come back from the brink. Not to beat around the bush, he looks like heading for his box. At the risk of seeming pushy, we must plan for future shocks. According to the hawk god Horus, our most regal invalid is not that much longer for us. Build another pyramid. Another pyramid. no discussion, bets are off. Soon our Pharaoh will have filled the tomb, just like his father did. Some of Egypt's greatest pillars. Alla fine degli anni 90 Sly e Robbie cominciano a sposare anche il jazz come musica a cui appartenere. Soprattutto molto fruttuosa è la collaborazione con Monty Alexander, jazzista giamaicano poi trapiantato in America, che nel 2000 darà vita a un intero album. Sì, un album uscito per la Telarc Jazz, un album che vede brani originali a dei rifacimenti degli standard del jazz, come Camaleon di Herbie Hancock, ma ancora Moanin di Bobby Timmons, Merci, Merci, Merci di Joe Zawinul. E noi però abbiamo scelto un pezzo bop, un pezzo di Lee Morgan, quel The Sidewinder. Diciamo anche che Sly and Robbie e Monty Alexander furono chiamati insieme a Ernest Ranklin a una tournée mondiale come una Jamaica All Star. E allora, The Sidewinder, Monty Alexander meets Sly and Robbie. cambiamo decisamente stile musicale, ci avviciniamo di più a quello che è il reggae, sto parlando dell'hip hop. È storica la collaborazione tra Sly and Robbie e Lauryn Hill nella formazione originale dei Fugees. Sì, sì, formazione che prevedeva oltre a Lauryn Hill anche Pra e Wyclef Jean. E noi ci ascoltiamo questo mix a cura di Sly and Robbie, colto dall'album The Score del 1996 per la Columbia Records. La traccia che ci ascoltiamo è Fugila. From out of the refugee camp, we present to you the group we call Fuji with Wyclef, Lorraine Presswell, with the international Sly and Robbie on the hardcore reggae beat. Now my selector, come now! Can I feel the vibe? Can I feel the vibe? We used to be number 10, now we permanent at one. Wyclef preaches on Ichibang. Mrs. Tin Can, I'm your candy handy man. Me without shoes, like American without the bandstand. Cool fellow, dance hall, stay mellow. All that gun talk, would've thought you die yellow. Damn, another hero wanna be. Now he sleeps with his friends in the mortuary. Dude, I find it rude when you intrude. My pistol nozzle, it's your nasal doodle. Comes out your anal just because you're buff. Don't play tough, cause I reverse the earth and turn your flesh back to dust. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the natural law that the refugees bring. Ooh la la la la la la la la la la la. So we, hey. Shalom, I know to be fun. Dig it. Stay high off the Fuji La bus when we rush through. You must know raw cuss crew got G's like the refuse. So F who ever wanna test, bring me stress. West coast back to east, grab my toast when I reach. Truly curving, swerving, lifestyle is urban, sipping bourbon, surviving. We really keep the word when a boy want be tested. Set done, you get wet up just a bit too unprepared to shoot it fair bet. Fake bullets can't scar me. I can spell a week out like safari. Play you out like a sorry, sacrifice you Harvey Carvey. And I'm sorry to every single rapper, Dick and Harvey. Saying they wanna spar me, cause I think my repertoire and my memoir be reminding me of eating calamari in the Kalahari with a band of Rastafari. So, ha ha ha, you shouldn't diss refugees, and ha ha ha, your whole sound set booty, and ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la, it's the remix sound that the refugees bring. I sit 90 degrees underneath palm trees, sitting in the cool breeze in the West Indies. Sleep the sea, ship my keys, or Santa Maria, sip sangria with señorita. They keep telling me this, telling me that. They smile in my face and they talk behind my back. But what they lack is the facts about my stack. It's a rap impact will kill you softly, hey, like yo, Roberta what's Flack. Going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Yo, what's going on? I'ma get and come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Call Mr. Martin, tell him to build a coffin. Today is that season. 100 MCs are get murdering. Stop it! Call Mr. Martin, tell him to build a coffin. Today is that season. 100 MCs are get murdering. Ha ha ha. Ooh la la la, it's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la. Martin, tell him to build a coffin. Today is dead season. 100 MCs I go murdering. Murdering. E anche questa puntata di Attica Blues volge al termine, ci rimane giusto il tempo di un'ultima traccia, ma vi ricordiamo che troverete in tempo reale il podcast di questa, come tutte le altre puntate di Attica Blues, sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. E vi ricordiamo anche le pagine social, Attica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram. E vi ricordiamo anche la corposa playlist di musica nera su Spotify. In tutti i casi, basta cercare Attica Blues. Come ultima traccia vi lasciamo con un pezzo jazz, con una collaborazione europea, con uno dei protagonisti dell'etichetta ECM di cui vi abbiamo parlato più volte. Jazz contaminato anche dal dub e dall'elettronica. Qui ci sono i protagonisti attuali del jazz scandinavo, il trombettista norvegese Nils Petter Molvær e il chitarrista Eivind Arset. E allora, l'album è uscito il 13 aprile del 2018 e si chiama Nordab. Noi abbiamo scelto How Long, Nils Petter Molvær meets Sly e Robby. E noi ci risentiamo, come al solito, giovedì prossimo dalle 4 alle 5, sempre su queste frequenze, 87.9, Radio Onda Rossa. How long would it take me to be your man? Or you want me to just tag along? Or should we just be friends? How long would it take me to be your man? Or you want it to be off and on? Or should we just be friends? How long? Just.